In it for you. In it, your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Nuova settimana su Radio Sherwood 97800 e Radio Sandonà 102200. Questa è Music for you nella consueta forma settimanale di un'ora a una. Ciao Al. Ciao Lele e benvenuto al nostro ospite della serata. Non è un ospite, Al, non catalogarlo come ospite, è un terzo conduttore, pro tempore. Allora, benvenuto al nostro ospite della serata, Nicola Bustreo. Salve a tutti e due. Ciao Al. Nico. È sceso Daniele. Di due piani e non sto scherzando, non ha fatto un volo dal balcone, ma in realtà... Non è Pessotto, è Nicola. Abita nello stesso condominio. Non ho preso l'ascensore. Sede di Radio Sandonà. Ha preso l'ascensore perché non ha voglia di fare le scale. La pigrizia andò al mercato ed un cavo lo comprò. Mezzogiorno era suonato quando a casa ritornò. Insomma, di che si parla questa sera a MFY? Allora, dopo una brillante introduzione gestita dal nostro co-conduttore Nicola Bustreo, che ora prenderà le redini della puntata e ci porterà verso nuovi lidi ancora inesplorati, abbiamo un'intervista interessantissima e qui c'è un momento di grossa serietà con Christian e Marta di Jenga Film, che è un collettivo che si occupa di produzione cinematografica e video di Padova e ci piace tantissimo per una serie di iniziative che sta portando avanti e che ospiterà nei prossimi mesi in una maniera assolutamente bella, se devo dire. Sì, c'è anche un'iniziativa in quel di Padova, ma tra poco sentiremo direttamente dalla viva voce di Christian che cosa succederà nel mese di maggio, mi pare. Esatto, nel mese di maggio, e poi tutte le iniziative che ruotano intorno all'universo Jenga Film, che, come dicevo prima, è assolutamente interessante e soprattutto per il pubblico padovano è un qualcosa di bello. Ora introduciamo il nostro co-conduttore, per cortesia. Sì, è uno che a cui se gli chiedi qualcosa sui corti, lui l'unica cosa che ti siede sui corti è corti, che è scritto corti, la frase di Germano Mosconi ho nel video. Ho detto corti. Per cui immagina te che gran contributo può dare a queste due già fervide menti che abbondano con voce nei microfoni di Sherwood. Un putpourri di cervelli in quel di Music for Youth questa sera. Se volete una parte in cui vi fate un minuto gli affari nostri, questo terzetto qui condivide buona parte delle proprie vite in comunità, in sostanza, dagli ultimi forse 10-12 anni. Sì, Bustreo, di che cosa vuoi parlarci questa sera? Sappi che il tema è lì. Libero, per cui tu sei specializzato in arte, fotografia. Se vogliamo fare una puntata tematica sulla fotografia e rendere pesantissima quest'ora, tu puoi farlo. Posso farlo? Sì, sì. Curi? Sì, racconta quello che vuoi, vai. Non ho niente da dire perché... Vedi? Perché il contributo di Bustreo. No, ma perché... Offuscarvi. Grazie, brilliamo di luce propria oramai. In realtà, secondo me, Bustreo è di fronte all'ansia da prestazione, sì, al momento. Sì, lo vedi. Esattamente. Proprio... Il cambio davanti ai microfoni, cioè quando li tiri su, tutti dicono: ma sì, far radio non è un problema, tu dacci un microfono e noi facciamo, poi... Guarda che poi diventa un casino, eh. Eh sì, in realtà... Ho visto gente morire. Ah sì? Sì, nel senso, in maniera figurata, gli tiri sul microfono e questi qua si paralizzano. Chi era la bambina che vedeva la gente morta? Forse era su un film che si chiama tipo The Others. The Others? Sì, con Nicole Kidman come protagonista. Sì, esattamente. Ascolta, non lo so, potresti chiederlo anche a Tom York, che di sicuro è un altro che ha delle visioni di un certo tipo. Nicola, vuoi dirci qualcosa su Tom York? No. Sai perché non vuole dire niente? Che non sa neanche chi è. Esattamente. Te lo diciamo noi, è il cantante dei Radiohead. Ora sei più direzionato? Minimamente non so niente. Bene, non importa, ma sappi che i Radiohead hanno licenziato un album nuovo, si chiama King of Limbs, è uno dei nuovi licenziati in casa autoprodotta i Radiohead. Eh sì. E lo potete comprare come il precedente. E come i precedenti altri, in realtà. Sì, ma in una maniera un po' diversa, nel senso che potete fare la vostra offertina anche se su questo c'è un pack completo che si fa anche pagare abbastanza, mi pare sulle 40 sterline. Non è come l'album precedente che era in Rainbows ad offerta libera, da zero a tutti i soldi che volevate mettere. Noi abbiamo dato veramente poco, non ci vergogniamo di questo, d'altronde le tasche sono bucate e non stiamo su Radio DJ. Esatto, beh, ora noi vi faremo sentire il singolone estratto da questo nuovo lavoro dei Radiohead, e mi colpisce il fatto che quest'oggi lo ascoltavo da YouTube e in pochissimo tempo ha raggiunto i 6 milioni, o raggiunto e superato i 6 milioni di ascolti, quando ci sono dei lavori dei Radiohead appartenenti ad esempio al primo album o a Ok Computer, che comunque è storia passata per quanto riguarda questa band, e sono in tutto l'arco della loro vita fermi ai suddetti 6 milioni. Questo cosa vuol dire? So che le proprietà dei social network sono imbarazzanti e fortissime. Esatto, e che si sta creando un effetto palla di neve su questa canzone dei Radiohead che è abbastanza importante. La palla di neve ci ha travolti e questa è Lotus Flower dei Radiohead, dal nuovo loro capitolo che è King of Limbs. Andiamoceli ad ascoltare su Music for Youth. Siamo rientrati in Music for Youth, Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2. Abbiamo degli ospiti a Music for Youth, è un collegamento telefonico e magia delle magie, siamo in quel di Padova o ci avviciniamo abbastanza. E tutto ciò è estremamente bello, con noi c'è Christian di Jenga Film. Christian, dimmi che sei in linea. Guarda, non ci crederai, ma sono in linea. Quanta meraviglia, che bello averti qui innanzitutto. Allora, vuoi dirci chi è, per chi non, ancora non vi conoscesse e sbaglia moltissimo, chi è Jenga Film? Jenga Film siamo un gruppo di persone. Jenga Film nasce nel 2006 a Padova da un gruppo di persone che si sono dedicate da anni a fare cortometraggi e con una grande idea di fare cinema, ma far cinema proprio dal, diciamo, con le mani, rimboccandosi le maniche, oltre al fatto di vedere cinema. Attualmente Jenga Film è, siamo intanto due soci, io e Marta Ridolfi, con la quale abbiamo cominciato anche dal punto di vista produttivo a creare Jenga Film, e attorno a noi ruotano una decina di persone, tutte ormai diventate professioniste del filmmaking, quindi da direttori della fotografia a operatori a fonici. Diciamo che abbiamo un gruppo di dalle 7 alle 10 persone stabili che collaborano nei singoli progetti, e poi abbiamo anche, ovviamente a seconda del progetto, una serie di persone che incontriamo sulla nostra strada, tipo gli attori sono tra questi. Tieni conto che ad esempio negli ultimi 3 anni per un progetto ne abbiamo incontrati 200 e abbiamo lavorato con 50 di questi. Caspita, noi probabilmente non incontreremo 200 persone nella vita, io credo, ma e tra i progetti ci sono cose assolutamente che spaziano al mondo della musica, al mondo del cinema. Ad esempio, recentemente siete stati, diciamo, creatori di un video di cui io vorrei che tu ci parlassi. Motivo di vanto. Dipende quale, perché recentemente guarda, adesso non è che ce la tiriamo, diciamo, ne abbiamo fatti tanti, ma ne abbiamo fatti 2 o 3 recentemente. E quindi dimmi quale ti ispirava al video. Recentemente è una band italiana a cui io sono particolarmente legato. Chi ti viene in mente? Sì, se mi dici una band padovana potrei dire forse La Piccola Bottega Baltazzaro. Esattamente, grandissimo. Esatto. Sì, che insieme a Raffaella Rivi abbiamo attraversato un piccolo pezzo della loro luminosa carriera, che anzi, tra l'altro, non so quando uscirà, ma credo in questi giorni uscirà in edicola con Il Mattino di Padova un loro nuovo lavoro, si chiama Radici, in realtà è una selezione di loro lavori. E per noi è stato ovviamente un onore lavorare con La Piccola Bottega Baltazar. Ci hanno chiesto di provare insieme a fare un videoclip. Questo videoclip è stato fatto quest'estate per il lancio del nuovo disco, Album di Rose, Ladro di Rose, scusate, ed è stato un bel percorso, che abbiamo fatto così, un po' per confrontandoci molto creativamente. Poi, sai, come tutti i percorsi, ci sono state cose davvero positive, altre che avremmo voluto migliorare, ma qui si entrerebbe nel discorso di quanto budget abbiamo a disposizione ogni volta che affrontiamo un lavoro, e purtroppo ultimamente noi dobbiamo fare un po' i conti con veramente poco. E nel caso della piccola bottega Baltazar, come è nata l'idea? Ossia, l'ambientazione soprattutto mi ha colpito del video. Lì è un lavoro che fate in team oppure qualcuno si presenta già con un'idea e poi partite da questa? Come funziona? In questo caso abbiamo condiviso inizialmente con loro, noi nel gruppo della Genga Film, quindi io, Raffaella, Marta, abbiamo condiviso con loro quali fossero intanto il sottotesto della canzone, perché ovviamente la canzone hanno un testo ma poi soprattutto hanno un grande sottotesto, e abbiamo capito ad esempio una cosa: che a primo acchito non sapevamo che La donna del cowboy era stata ispirata dalla lettura di Gomorra di Roberto Saviano. E quindi siamo partiti lì a chiederci chi fosse La donna del cowboy, ambientata però nel nord-est, visto che comunque la piccola bottega Baltazar è assolutamente ancorata nel nord-est, sia per vocalità, per lingua, ma anche per storia. E quindi queste ambientazioni, cioè ci siamo chiesti chi fosse questa ragazza, la ragazza del boss, che era diversa dalle altre ragazze. Noi chiaramente non siamo a Scampia o a Casal di Principe, però anche qui da noi potevano esserci delle situazioni, diciamo, di degrado, e comunque delle situazioni in cui una ragazza adolescente che magari non ha avuto la possibilità di studiare, che ha frequentato la malavita anche locale, se lei vuole distinguersi dagli altri probabilmente ha soprattutto come modo di farlo il sogno. E quindi abbiamo ambientato questa cosa in due realtà: una che era la realtà molto brutta, tra l'altro anche visivamente, fatta di asfalto, fatta di container, con invece il suo sogno, che è in parte bello, in parte sporcato da questa realtà. Il sogno avveniva chiaramente dentro un ambiente buio, cupo, con dei bauli da cui si entrava e usciva e dai quali lei poteva estrarre una serie di ricordi e sensazioni della sua vita, dalla camicia sporca di sangue alle bottiglie di birra e ad altro. Ad esempio c'è una scena in cui lei si sta asciugando i capelli con il phon, e quella l'avevamo interpretata come uno dei momenti più emozionanti per un adolescente, cioè il momento poco prima di uscire, il venerdì, il sabato sera, quando tu sei a casa che ti stai asciugando i capelli, dopo che ti sei preparato, che ti stai preparando, e sei lì che stai immaginando col rumore del phon a tutto quello che potrà succedere quella sera, e magari non succederà mai. Quindi questo è stato un po' la base di partenza, l'idea creativa, che poi abbiamo cercato di condividere con la piccola bottega. E volevo chiederti, al di là dell'ambito videoclip di band italiane e quant'altro, mi puoi fare un recap molto breve di quali sono secondo te le tappe principali per Genga Film, e se ci vuoi presentare un progetto che prenderà vita di qui a breve, che è il progetto Corti a Ponte? Sì, esatto. Allora, le tappe fondamentali, allora io dico, Genga Film è nata perché noi, l'abbiamo scritto anche sul sito, che se posso dirlo, è appunto... No, devi, Genga, devi. Devo dirlo, Genga Film, scritto con la J o lunga, .it, oppure ci si trova anche in Facebook cercando Genga Film. Sul sito, se uno clicca, la prima cosa che c'è scritto facciamo film con un punto. Non vuole dire noi facciamo film e siamo fighi, vuol dire solo abbiamo scelto di fare film, cioè non abbiamo scelto di fare l'audiovisivo, di andare a riprendere qualsiasi cosa, abbiamo scelto di fare i creativi e di cercare di far sì che i nostri sogni, la nostra immaginazione possa essere proposta agli altri tramite questo mezzo che è il video, o soprattutto, ci piace dirlo, il cinema. Quindi le tappe nostre sono iniziate proprio dai corti. Abbiamo iniziato, e il nome Genga Film è iniziato nel 2006 con questo cortometraggio che si chiamava Legami di Pezza, il quale ha avuto anche un discreto successo, è andato a una serie di festival internazionali, e poi da quello abbiamo iniziato poi a fare altri lavori. Abbiamo fatto un documentario che si chiama I ragazzi delle banche, che sulla breakdance a Padova, che doveva essere in realtà un promo, poi purtroppo non è diventato un mega progetto, ed è stato questo promo è diventato un mini documentario. Abbiamo fatto un cortometraggio a Berlino che si chiama Parallels, un cortometraggio realizzato in un giorno, e poi queste sono proprio, dico solo, le tappe principali. E poi adesso stiamo cominciando, e poi ovviamente abbiamo cominciato insieme ad altre persone a costituire un festival di cortometraggi, si chiama Corti a Ponte, e chi volesse andare a vedere il sito è cortiaponte.it. Corti a Ponte è nato 4 anni fa, a Ponte San Nicolò in provincia di Padova, con l'idea di essere un festival per cortometraggi, ma che anche volesse creare una certa sensibilità, una certa cultura attorno al cortometraggio, non fosse solo raccogliamo i corti e facciamo vedere i corti. E quindi ci sono una serie di sezioni molto specifiche, c'è tutta una sezione dedicata alle scuole, ai ragazzi, fatta soprattutto da quelle scuole o da quelle classi che creano i film non con protagonisti ragazzi, ma con i ragazzi autori loro stessi dei film, e quindi c'è molto spazio al cinema d'animazione. Quest'anno per la prima volta avremo ospiti due classi dalla Russia e probabilmente una classe dalla Francia e anche degli autori di cinema d'animazione del Brasile, quindi quest'anno siamo veramente internazionali. Ecco, questo per dire. E poi c'è il concorso, quello tradizionale di corti e di cortometraggi fino a 15 minuti, e anche diamo la possibilità ai ragazzi alle prime armi di esprimersi in una sezione che si chiama Germogli, perché è un po' come la musica, no? Tu quando cominci a suonare, molte persone iniziano a suonare a 14-15 anni, fanno la loro band, poi vorrebbero andare a farsi vedere, e il problema è dare degli spazi per farsi vedere con la musica. Un po' sta accadendo adesso con il video, con i corti. Oggi è molto più facile accedere ai media, quindi alla telecamera, ma anche a dei telefonini con cui puoi fare dei film, e i ragazzini cominciano così, si approcciano così, però poi non sanno bene a chi farli vedere, dove farli vedere. Corte Ponte è diventato un po' un incubatore, un raccoglitore di queste cose, quindi c'è un camera del festival che mostra questa sezione Germogli, e da quest'anno coniughiamo questo con la musica e abbiamo anche la sezione videoclip. E poi c'è questa cosa del corto in 48 ore che vorrei che ci spiegassi, perché anche io e Lele qui presente siamo assolutamente interessati, volevamo anche riprendere il nostro frigorifero o i nostri frigoriferi che si parlavano, un grande momento di cinematografia. Cos'è il corto? Che vorremmo vedere. Sì, vero. Allora, fare un corto in 48 ore è nato l'altro anno, quindi questa sarà la terza edizione, e sarà, vi dico anche le date perché poi magari se... e ci farebbe piacere se qualcuno fosse interessato. Ah, noi veniamo coi frighi. Allora, il festival, quindi la presentazione dei lavori e tutto quanto, sarà il 20 e 21 maggio presso la sala civica del comune di Ponte San Nicolò Padova, mentre il fai un corto in 48 ore sarà il fine settimana prima, ovvero venerdì 13, quindi una data facile da ricordare. Venerdì 13 maggio alle ore 19 ci troveremo presso una sala del comune. Apriremo delle buste, in queste buste sarà contenuto un oggetto, un personaggio e una frase, e una volta selezionate queste tre indicazioni, le troupe avranno 48 ore di tempo, e quindi fino a domenica sera tra le 19 e le 20, a seconda di quando andremo al via, avranno il tempo per pensarlo, realizzarlo e montarlo. Il tutto dovrà durare, avere una durata inferiore ai 5 minuti, e dovrà ovviamente tener conto di queste tre cose, quindi il personaggio, la frase e l'oggetto. In più dovrà avere almeno un'ambientazione a Ponte San Nicolò, perché chiaramente vogliamo anche valorizzare il territorio che ci ospita. Da quest'anno abbiamo anche capito che ci sono molte persone che vorrebbero partecipare ma non hanno una troupe, e quindi daremo la possibilità a chi è single, o una cosa che insomma ultimamente nuova di moda, fanno tutte le cose per i single, anche nel fare il film c'è questa possibilità, chi è single viene lì e si può accoppiare o fare altre o fare quello che gli pare con altre troupe già venerdì sera. E il sabato alcuni attori si sono messi a disposizione, attori professionisti, in che senso? Per girare con le troupe. Ah, pensavamo okay. Per accoppiarsi con i single, ma comunque va bene. Non è da escludere, non è da escludere, ma questa sta la bravura delle arti amatorie di chi verrà a Cortiapoli. Che bei momenti di promiscuità varia. Oh. Ascolta, volevo chiederti un'ultima cosa: quali sono i progetti attuali di Genga Film oltre al progetto Corti a Ponte, perché so che c'è qualcosa in cantiere in questo periodo, no? Sì, diciamo che ce ne sono sempre vari, fortunatamente. In questo momento sta per partire un video virale, partirà nei prossimi giorni o se non è già partito, legato a una campagna di prevenzione per una serie di problemini maschili, diciamo. Quindi se guardate su internet, se guardate il nostro sito, guardate in giro, tra pochissimo, veramente tra pochi giorni vedrete questa cosa. E poi la cosa più variopinta che stiamo facendo, abbiamo deciso di collaborare con una troupe brasiliana la quale ci ha contattato al Festival del Cinema, alla Mostra del Cinema di Venezia, per girare un telefilm. Sono 5 puntate di un telefilm da 15 minuti che andrà in onda sulla TV brasiliana in agosto. Quindi con loro gireremo tutto il Veneto, faremo una tappa molto breve a Roma, ma poi gireremo tutte le città del Veneto, per una specie di commedia in seguimento che ogni tanto vira verso la soap opera, anche se loro dicono di no, ma insomma questa è un po' una tendenza brasiliana. E poi stiamo partendo anche con un documentario. Non possiamo dire chi è la protagonista, perché è un documentario di una importante marca italiana, anzi internazionale, sarà un documentario adrenalinico che vedremo comunque a luglio di quest'anno. E quindi noi invitiamo tutti i radioascoltatori ad andare il più presto possibile su, correggimi se le sbaglio Christian, www.jengafilm, scritto con la J.it. Assolutamente sì. E andare a vedere tutti i progetti di queste mirabolanti menti che si nascondono dietro il nome Jenga Film. Io sono interessato al progetto sulle elezioni subito, d'altronde a maggio c'è stato un decreto legislativo, ci sono le elezioni in arrivo. Sì. Elezioni, quel che è. Cambi una consonante e è tutta salute. Elezioni subito, a maggio. Ecco, guardate i nostri virali e magari ne gioverete tutti. Esatto, come diceva quello. Insomma. Ti ringraziamo Christian. Grazie mille per essere stati ragazzi. Con noi. Grazie mille, ciao. Ciao. Reach the city steps. We'll be right back. the black night, and your voice cries out for the cool day grace, and the lights go out. Will there be a trace that our love, Sylvia, that I love, Sylvia, Mike Snow. Questa era Sylvia con due i, Mike, non come sì. Buongiorno. No, e di questi non hanno trafugato il cadavere, se non altro. No, anche perché dovrebbero andare fin su in Svezia e probabilmente sarebbe anche molto congelato. Loro sono un trio di produttori svedesi, hanno prodotto per se stessi, producono ovviamente per se stessi. Questo era il pezzo estratto dal loro unico album per ora, che si chiama Mike Snow, è omonimo. E producono anche per signori tipo Madonna, oppure remixano canzoni di altri artisti, tra cui La Rue. Mi vengono in mente Amadou e Marianne, che sono due cantautori senegalesi, sì, se non sbaglio, che hanno collaborato precedentemente anche con Manu Chao. Hanno remixato, se ora torno a parlare dei Mike Snow, hanno remixato i Vampire Weekend e una serie di altri grossi nomi. Ve li consiglio perché il sound è particolarmente fresco e mi ricorda un po' i videogiochi anni 80, e questo è sempre una cosa bella. Restando nelle tematiche Cenga Film, e ringraziamo ancora Christian per l'intervista di un quarto d'ora sbobinata poco fa, andiamo ad ascoltarci un pezzo di Moby, e Favotto vi spiegherà il perché e il per come è stato scelto questo pezzo di Moby. Allora, Moby sta per licenziare un nuovo album che uscirà più o meno quando l'attività di Cenga Film entra nel vivo, ossia il prossimo maggio o il prossimo giugno. Qui le date sono ancora un poco incerte, ma ha anticipato l'uscita licenziando un EP che è gratuitamente scaricabile dal sito dell'artista. L'EP di tre tracce si chiama Be The One e andremo a sentirci la traccia omonima. Perché è importante parlare di Moby in questo momento? Perché Christian ci ricordava prima le iniziative legate ai cortometraggi di cui Cenga Film si fa promotrice, e Moby dà una sua mano, il pelatino ci aiuta e ci viene in soccorso. Ossia, cosa ha fatto Moby? Recentemente ha creato una sezione Moby Help, o che si chiama Moby Gratis in realtà, nel suo sito. Iscrivendosi a questo Moby Gratis potete scaricare in licenza Creative Commons una serie di contenuti audio creati da Moby come diciamo tracce di sottofondo a un ipotetico vostro film. Ossia, Moby scrive nel sito: ragazzi, voi state facendo un film, state facendo un corto, siete alle prime armi, non sapete che musica metterci, ve ne do io qui a pacchi, a palate. Esatto, qui ne trovate un quintale per tutti i vostri stati d'animo e per tutte le vostre esigenze. Dovete dare una colonna sonora a un gatto che va dal gelataio, io ce l'ho. Avete il gabibbo che si sfonda su uno Scania, io ce l'ho. Ed è una bellissima immagine, ti prego, facciamoci un corto. avete due frighi che si parlano, io ho anche questo. A questo punto, per chiunque avesse, e noi ve lo consigliamo perché è una cosa che noi non riusciremo mai a fare, ma il nostro terzo conduttore Bustreo magari sì, se vi venisse voglia di farvi un corto, allora preferite Moby per quanto riguarda le colonne sonore. E nel contempo scaricatevi anche questo Be The One, che è gratis, è ben fatto, ricorda un po' le prime sonorità di Moby, quelle un po' più verso la techno, e non ci dispiace. Su Music for Youth questo è Moby con Be The One dal suo ultimo EP. I was the one when you needed love. All never seemed what you wanted, love. I was the hell that you needed, oh. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. All never seemed what you wanted, love. I was the hell that you needed, oh. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seemed what you wanted, love. I was the hell that you needed, oh. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seemed what you wanted, love. I was the hell that you needed, oh. I was the one when you needed love. Moby con Be The One. Siamo rientrati in studio Music for Youth, Radio Sherwood 97.8, Radio Sandona 102.2. Quasi quasi è il momento dei contatti, se Favotto è pronto, ma moglie gli chiedo, ti senti pronto? Io nasco pronto, perché il contatto è un po' il mio pane quotidiano, ma visto che abbiamo un terzo conduttore, li farei fare a lui. Ma lì sa? Il problema è che lì sa? Beh, per le parti fondamentali, ossia i numeri, posso pensarci io. Tu devi solo dire: questo è il nostro telefono. Ok. Il telefono 0421 560993. Il fax 0421 560994. L'email radio@radiosandona.it. Ma abbiamo anche un sito. Bravissimo. Grazie. www.musicforyouth.wordpress.com. Per i non anglofoni, Favotto, mi fai lo spelling di Youth? Y-O-U-T-H e non I-U-F-F come ci è arrivato recentemente per mail. Il signor Bustreo immagino sappia che abbiamo anche un gruppo in Facebook, è vero che lo sai? Sì, lo so. Ci sei iscritto? È ovvio. E chi non l'è iscritto è un fagiano sparato. Quindi 6 miliardi di persone nel mondo, meno 2900 e qualche cosa. Sì. Music for Youth on Air, come i fagiani sparati, è per l'appunto il nostro gruppo in Facebook. Ci si potrebbero iscrivere anche i Visnu e Puritans, secondo me. Esatto, i famosi Fagiani in Fiamme. Cosa vuol dire? Fagiani in Fiamme è un disco di un gruppo ska-core dei tempi passati chiamato i 400 Colpi. Per fortuna li conosci solo tu, ma in realtà non è vero, perché ora sveliamo che noi abbiamo ballato sul palco dei 400 Colpi. Sì, in una serata in cui erano presenti queste tre persone e pochissimo altro. Perché l'hai tirata fuori sta cosa? Io me l'ero anche dimenticata. Ma certe cose non è bene rimuoverle. Tra l'altro vorrei far notare a tutti e due, visto che questa è una puntata un po' più intima, il fatto che quella sera le piadine fossero servite da il paletta di Sarabanda. È vero, le serviva il paletta di Sarabanda. Vedo che hai una memoria di quelle fotografiche e lisergiche da non poco conto. Purtroppo non siamo andati l'anno dopo in cui le serviva l'uomo gatto, perché non capisco perché. Perché era una traversata per noi abbastanza lunga, trattandosi che questo festival era in qualche posto verso Belluno. Sappi comunque che l'uomo gatto è stato eliminato da Sarabanda perché dopo 10 secondi e un aiuto non ha saputo azzeccare Elvis dei Visnu Puritans, preso dall'album Best Pyramid, una band british. Sì. E ora ti dico il posticino dal quale vengo. No, Southend on Sea. Per non anglofoni. Soprattutto per i non anglofoni. I non anglofoni on Sea. Insomma, dal sud end sul mare, sostanzialmente. Molto bene. No, ci piace questa canzone intitolata Elvis. Perché? Perché per a un certo punto. D'Anca. Perché a un certo punto parla di noi, ossia dice: siamo stati osservati da degli esperti. Ma per davvero? Sì, we have been watched by experts. Confermo come l'uomo gatto e anche un po' come quell'altra che l'ha seguito. La so, questa è Visnu Puritans con Elvis. The Best Pyramid, questa era Elvis dei These New Puritans. Siamo ritornati in studio, Music for You, for Radio Shadow 97 e 8, Radio Sandona 102 e 2, non ci stuferemo mai di dirlo. Mm-hmm. Puntata abbastanza sull'elettronica, si va su Trent Müller come gli yogurt. Esatto, Trent Müller come l'attaccante della Juventus ai tempi d'oro. Ma davvero c'era uno che si chiamava Müller? Sì. Ma stai scherzando? No, e tatuava maiali, cosa che in Belgio non si può fare. Ma c'era anche, era l'epoca in cui c'erano Padovano, Di Livio, Ravanelli, era prima, era dopo. Era il periodo di Fortunato, mi chiederai tu. Che era quello che non volevo nominare, che poi così fortunato non è stato a quanto no, pare. Poverino. Trent Müller, parliamo di questo bel ragazzo. Trent Müller, grande DJ, dannata, diciamo, sì. Che tanto regala alla nostra produzione mondiale. Bustreo, celebre, celeberrimo esperto in elettronica internazionale, ce ne parlerà estensivamente. Sai qualcosa di Trent Müller, Bustreo? Guarda che stai dando di quei contributi, di quelle vette a questo programma. Io vado a tatuare i maiali e basta, è meglio. Non puoi farlo in Belgio comunque. Siamo in Italia. È illegale tatuare maiali in Belgio. Per cui i Soulwax non lo possono più fare. Esatto, che era una loro abitudine. Povere bestie, i Soulwax comunque. Non i maiali. Poi tu immaginati un maiale con un tribale. Su che zampa, tra l'altro? No, sulla coscia, secondo me. Ascolta, Trent Müller, che mi porta la minimal verso il pubblico di massa. Sì. Famoso al 2005, non chiedermi perché. Io ho preso una canzone estratta dall'album che si chiama, aspetta che me documento, The Last Resort, è del 2006, un episodio parecchio grosso per questo bel ragazzotto che non so neanche da dove venga, ma con un cognome così e un codice fiscale da chilo, mi sa che sei tipo tedesco. Sì, può essere, non ne ho la più pallida idea, però so che nel caso abbiate una fidanzata o una morosa o un moroso o un fidanzato o un maiale che non avete ancora tatuato e voi siate a distanza, potete sempre usare Trent Müller per farvi ricordare, perché c'è una canzone molto bella che si chiama Miss You. Invece noi andiamo ad ascoltarci Always Something Better, e io ne sono consapevole che ci sarà sempre qualcosa di meglio oltre a te a questo mondo. No, beh, in effetti ci sono io. Esatto. Always Something Better di Trent Moller. Siamo rientrati, Music for Youth va in chiusura dopo una parentesi iniziale in cui, guarda, la serietà fa voto, forse aver toccato anche dei vertici da non poco conto. Sì, almeno per i nostri standard mi pare di sì. Poi la cosa è scesa a livelli veramente orribili, infimi, se posso dire la verità. È la colpa è solo che di Nicola Bustreo. Eh sì, che con il suo eloquente silenzio ci spinge in fallo. Tu ricordami che non dovremo mai più affiancare un terzo conduttore reale o presunto, ma neanche di quelli più professionali. Ci rovinano. Va bene. Cioè, già noi facciamo schifo in due, figurati coordinarci in tre. Un disastro. A questo punto, se posso prendermi un veloce giardinetto, faccio i complimenti a tutti e due per la recente laurea. E non dovevi dire questa cosa. Non dovevi. Asso Bustreo, tu sei d'accordo sul fatto che l'abbia detta? Sì. Vabbè, tanto ormai. Sharing pubblico. E quindi lanciamoci dei geranei tra noi. È vero, ci siamo laureati e non l'abbiamo detto a nessuno. Offro io i geranei, ovviamente. Offro i geranei perché non sapete. www.bustreo.it, oltre a musicforyouth.wordpress.com, c'è una partnership aperta da questa sera tra i due siti. Uno sconto per chi passa attraverso da un link all'altro. Scoprirete per cos'è lo sconto. Documentatevi tutti quanti. Forse si può documentare che la gente che si ascolta Bon Iver o Bon Iver, o Bon Iver, a seconda della vostra pronuncia, e a seconda se siate del Canada francese o del Canada inglese, in sostanza, o del Canada del Senegal, perché potete chiamarlo Bon Iver come lo chiamo io. In realtà la pronuncia giusta l'ha detta Favotto, Bon Iver, giusto? Ma non ne ho la più pallida idea, sì, sì. In realtà però a noi piace particolarmente l'album Forever Forever Ago. Secondo me è uno dei migliori del 2008, cioè io lo ascolto a tutt'oggi e a me piace un sacco. Sì, e tra l'altro lui è assolutamente prolifico perché fa album come Noi si beve Zabaioni, praticamente, quindi uno ogni due ore. E infatti codesta sera ve lo presentiamo, ma in chiave elettronica. È un progetto con dei bei ragazzi, un super gruppo, Collection of Colonies of Bees, non so dove saltino fuori, di sicuro sono canadesi. E sì, di sicuro un nome scelto in una serata su un argine, molto probabilmente aspettando un treno. Loro hanno licenziato un album che si chiama Unmap, ha visto la luce nel 2009 attraverso la Fall Creek, che è la stessa casa discografica di Bright Eyes, mi viene in mente così al volo. È un progetto un po' elettronico perché Bon Iver invece si dedica più al cantautorato con chitarra, a dirla così. Lui sì. Si era chiuso in un capannotto nel Vermont dopo una delusione d'amore e ha composto questo album fenomenale. Fa voto non ridere e non smontare Bon Iver o Bon Iver, che è uno dei miei idoli dell'ultimo periodo. Sì, ma si è chiuso in un capannotto, Lele. Lo so, cosa devi fare, ma io sono in radio con te, Bustreo, mi sa che se la passava meglio lui. Volcano Choir, Island Is, questo è il pezzo che chiude Music for Youth, grazie Bustreo. Prego. Grazie mille per essere stato con noi. Una presenza dirompente. Inquietante. Oscena. Volcano Choir, ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao.